The Sound of Science, il suono della scienza, di Maurizio Melis e Giulia Torino. È stato uno dei più grandi fisici del Novecento, padre della fisica nucleare. Ha fornito prove e argomenti inconfutabili alla teoria del Big Bang, spiegato la composizione chimica dell'universo e perfino proposto, primo fra tutti, il principio di codificazione genetica del DNA. Ma soprattutto Georg Gamow ha navigato con la stessa leggerezza, ironia e spavalderia attraverso le due rivoluzioni che hanno segnato la sua vita: la rivoluzione russa seguita dal regime di Stalin e la rivoluzione della fisica, di cui è stato uno dei protagonisti durante quegli straordinari primi 30 anni del Novecento. Quella che stiamo per raccontarvi è la sua storia. Siamo a Sound of Science e allora iniziamo anche noi con leggerezza, con un brano che fa più o meno così. Our whole universe was in a hot, dense state, and nearly 14 billion years ago, expansion started. Wait! The earth began to cool, the autotroph began to drool, and the task developed tools we built a wall. We built a pyramid. Math, science, history, unraveling the mysteries that all started with the Big Bang. It is pending ever awkward, but one day the stars to go the other way. Collapsing ever in work, it wouldn't be here, it won't be heard. A vast and brightest figure that I make an even bigger bang. A story of Peter Cross will really have been sick of us debating how we hear the catching deer. Religion or astronomy, the cut of Deuteronomy, it all started with the Big Bang. Music and mythology, Einstein and astrology, it all started with the Big Bang. It all started with the Big Bang. Martellini, la conosceva questa? Onestamente no. Che cos'è, Giulia? È la colonna sonora di Big Bang Theory, la sitcom statunitense molto molto famosa. Credo che attualmente gli attori di Big Bang Theory siano i più pagati attori di serie televisiva nel mondo. Wow. E sono protagonisti degli scienziati, con tutte anche le loro stranezze, no? C'è anche qualche luogo comune dentro. Sì. Allora, questo brano racconta in poco meno di 2 minuti la formazione dell'universo, tutta l'evoluzione della Terra e nomina praticamente tutto: scienza, storia, matematica, fisica, indicandoci che tutto dipende dal Big Bang. Ed è anche un'idea molto presente nella musica, a volte si usa questo tema come dire veniamo tutti da lì, quindi volemose bene. Diciamo, a volte un po' questa la traduzione. Maurizio Martellini è professore di fisica all'Università dell'Insubria, ma è anche esperto di geopolitica, si è occupato e continua ad occuparsi di disarmo nucleare in qualità di segretario generale dell'Landau Network, centrovolta di Como, e anche vissuto in Unione Sovietica. Sì. Grazie di essere qui con noi. Grazie a voi, ragazzi. Il problema dei giovani fisici italiani, quando mi sono laureato, era le scelte erano molto semplici, lo si diventava molto bravi all'estero. E quindi io veramente, la mia compagna mi dice: ma insomma, non conosci gli ABBA? Io non conoscevo gli ABBA e sto facendomi all'età di 64 anni un corso per imparare questa musica che è bellissima. Sì, è vero, la musica, la fisica e la matematica hanno elementi in comune. E spesso anche le stesse persone sono state amanti di queste persone, cose. Sì. Dunque, Martellini, credo che ogni fisico, se avesse potuto scegliere un momento storico in cui vivere, avrebbe scelto i primi 30 anni del Novecento. Mentre i primi telescopi di grande apertura iniziavano a mostrare un universo molto diverso da quello che immaginavamo, dal 1905 al 1930 vedono la luce le due teorie fondamentali attraverso cui ancora oggi spieghiamo l'universo. La teoria della relatività, che descrive il comportamento della gravità e fissa le leggi del moto, e la meccanica quantistica, che invece descrive tutte le particelle e le forze elementari. A loro volta queste due nuove teorie innescano una valanga di scoperte negli anni immediatamente successivi, che vanno dalla scoperta appunto della fonte di energia delle stelle a quella dell'espansione cosmica, la scoperta del Big Bang, dei buchi neri, solo per citare alcuni esempi. Georg Gamow nasce nel 1904 e morirà nel 1968, attraversando da protagonista quest'epoca che in pochi anni ha modificato la nostra concezione di spazio, tempo, materia, cosmo. Allora partiamo dall'astronomia. All'inizio del Novecento, per la prima volta, sono disponibili telescopi abbastanza potenti da mostrare che quelle strane nebulose ovali che si vedevano un po' dappertutto nel cielo e che noi oggi chiamiamo galassie non erano delle semplici nubi di gas o polvere, come si era creduto fino ad allora, ma oggetti lontanissimi, isole formate da centinaia di miliardi di stelle tenute assieme dalla gravità. Si capì che anche noi ci trovavamo all'interno di una di queste isole, che la nostra Via Lattea era una galassia rispettabile, ma non eccezionale, tra centinaia di miliardi di altre galassie sparse nella porzione di universo a noi visibile. Ma non è tutto. Negli stessi anni due scienziati, Alexander Friedman, che fu uno anche dei maestri di Gamow, e Georges Lemaître, scoprono che secondo le equazioni della relatività generale di Einstein, pubblicate nel 1915, l'universo non può essere qualcosa di stabile e statico, un oggetto, diciamo così, in equilibrio. Ma al contrario è qualcosa di dinamico, che deve per forza espandersi oppure contrarsi, ma difficilmente può stare fermo. Nemmeno Einstein è convinto di queste conclusioni, ma due astronomi, Milton Humason e soprattutto Edwin Hubble, portano le prove che tutto questo è vero. Con in mano il primo telescopio da 100 pollici del mondo, il telescopio di Mount Wilson, Hubble aveva già svelato per primo la natura delle galassie, dimostrando per la prima volta nel 1924 che erano composte di stelle che distavano da noi milioni di anni luce. Ebbene, dopo questa scoperta, Hubble iniziò a studiare lo spettro luminoso delle galassie, in particolare a misurare quello che viene chiamato effetto Doppler, un fenomeno simile a quello che sperimentiamo quando una sirena ci sembra più acuta mentre si sta avvicinando a noi e più grave quando si allontana. Nel caso della luce, l'effetto Doppler fa sì che un oggetto tenda verso il blu se si avvicina a noi e verso il rosso se invece si allontana. Hubble misura l'effetto Doppler che agisce sulle galassie e che cosa scopre, Martellini? Cosa vede? Vede appunto dallo spettro Doppler, vede dei fenomeni che sono spiegabili se e solamente se queste galassie si allontanano relativamente a un ipotetico centro. Non si sapeva perché. Quindi si scopre che queste galassie si stanno tutte allontanando da noi. Sì. E questo che cosa implica? Implica qual è il motore famoso che allontana le galassie. Ricordati che all'inizio del secolo c'era una visione dell'etere, questa sostanza che doveva essere ovunque nello spazio, e l'idea era che le galassie si muovessero in questa struttura. Poi è arrivato un bischiaccio, Einstein, che ha detto no, le galassie sono dei puntini, come i puntini su un palloncino che si gonfia. Il palloncino è questa strana cosa che anche noi fisici moderni capiamo poco, che è lo spazio-tempo che si espande. Cioè l'espansione delle galassie è l'espansione di un substrato ancora più primordiale. È come se queste galassie fossero disegnate sulla superficie del palloncino, quindi quando gonfiate il palloncino vedete che le galassie si allontanano l'una dall'altra. E questo, se si riavvolge il nastro, ci porta alla nascita di un altro concetto potentissimo. Sì, perché se si riavvolge il nastro si arriva a un punto di estrema densità, di estrema... Il palloncino si sgonfia alla fine. Però attenzione, l'energia, principio sacrosanto della fisica, è conservata, quindi se l'energia di tutto l'universo in una grossa palla viene concentrata in palle sempre più sgonfiate, aumenta l'energia, la densità di energia fino a quella famosa cosa che i fisici moderni chiamano singolarità. E soprattutto Big Bang. No? Il che Big Bang, sì, nasce era come l'idea. Definizione anche così, in realtà Hoyle, se non sbaglio, usa questo termine in modo dispregiativo. Dispregiativo, infatti lo stesso Einstein introdusse nelle sue equazioni una specie di colla misteriosissima che si chiama costante cosmologica per rallentare questa espansione. Per fare in modo che l'universo rimanesse statico, ma era un'aggiunta un po' artificiosa perché Einstein era il primo che non gli piaceva tanto questo universo in espansione. Esattamente. No? Nella fisica, nella storia della fisica, si tende sempre a, anche Tolomeo con gli epicentri, gli epicicli, tutte queste varie orbite, si tende a conservare lo status precedente. Questo è il punto. Il concetto di evoluzione nella fisica è un concetto resiliente, si direbbe oggi, cioè sopravvive, ma che ha grosse difficoltà ad affermarsi. Ecco, chi sono le persone che, poi veniamo al ruolo di Gamov in questa partita, sì, diciamo, della cosmologia, che è una delle tante partite che si gioca in quel trentennio fantastico, bravo, dell'inizio del Novecento. Chi sono quelli, sì, che all'epoca della scoperta, diciamo così, del Big Bang non sono pronti però ad accettarlo? Uno è Einstein, abbiamo detto. Uno è Einstein, stranamente la scuola inglese. Appunto, tranne le scoperte astronomiche di Eddington, che era un fisico pure lui, mostrano che questa espansione e i fenomeni sono reali. C'era questa resistenza ad accettare l'espansione dell'universo in quanto non si capiva l'origine, e neanche come sarebbe andata a finire, perché in qualche modo un universo statico era più tranquillizzante, no? L'universo statico è più tranquillizzante, ma è l'universo che preserva, introduce meno sorprese. Ah beh, senza dubbio. Cioè, l'universo si espande e si contrae, come hai detto te, si potrebbe fare il film all'incontrario, ma cos'è poi questa singolarità da dove poi scoppia tutto? Cioè, questo non senso matematico, potremmo dire, che non piace a molti fisici e intellettuali dell'epoca, per la verità non convince tutti, nemmeno oggi. E questo ci porta dritti verso Gamov, perché insomma questa idea di un universo che salta fuori improvvisamente dal nulla con un grande botto, come appunto lo etichettò Fred Hoyle, appariva in effetti un po' strampalata per l'epoca ed era difficile da mandare giù senza qualche prova più diretta che non il solo allontanamento delle galassie. Ed è proprio su questo terreno, cioè nel fornire prove a sostegno della teoria del Big Bang, che Gamov dà i propri più importanti forse contributi, che sono fondamentalmente due. Partiamo dal primo. Gamov era un esperto delle reazioni nucleari che avvenivano nelle stelle e di come queste agissero come delle vere e proprie fucine di elementi chimici. E negli anni 40 provò ad applicare queste conoscenze al momento del Big Bang, domandandosi quanti e quali elementi chimici si sarebbero prodotti nelle reazioni nucleari durante le prime fasi di vita dell'universo. E scoprendo che questi corrispondevano esattamente all'abbondanza relativa dei principali elementi chimici nell'universo osservabile. Insomma, Gamow riesce a spiegare le percentuali che si osservano nell'universo di idrogeno, elio, litio e quant'altro. È la prima prova diretta del Big Bang. Ma ancora non basta, perché Gamow, insieme al collega Ralph Alfer, fa una previsione. Martellini. La radiazione cosmica di fondo. Sì, perché di questo alito, parlando con linguaggio comune, di questa traccia primordiale di questo alito, c'è a 3 Kelvin più o meno, a questa temperatura, c'è questa radiazione. È un po' come un rumore di fondo. Chi si ricorda le vecchie radio eterodina, si dice così, le vecchie radio, c'era quel rumore di fondo, sì, bravi. E quindi questa è la traccia dell'inizio dell'universo. Quindi quando il Big Bang è avvenuto, sì, diciamo così, si libera una, sì, radiazione, sì, di cui noi oggi ancora riusciamo, certamente, a percepire un eco. Te sai che questa radiazione di fondo è stata scoperta tramite dei satelliti militari. E poi Martellini ci aiuterà a svelare questo retroscena. Adesso facciamo una pausa con un po' di musica, e questa volta però, Giulia, io e te ci limitiamo ad ascoltare. Che cosa, Giulia? Galaxy Song dei Monty Python. Abbiamo scelto un brano umoristico, molto molto simpatico, che ci descrive nei dettagli più minimi la storia dell'universo. In realtà poi nella parte del film l'attore canta questa canzone dedicandola a un altro personaggio del film, proprio per paragonare le sue minuscole paturnie rispetto all'infinità dell'universo, e quindi infatti elenca proprio tutti questi dettagli, tra l'altro con la forma un po' del dialogo tipica di tanti scritti scientifici, no, di epoca, sì, di epoca, da Galileo in avanti. E allora ascoltiamo. Just remember that you're standing on a planet that's evolving and revolving at 900 miles an hour, that's orbiting at 19 miles a second, so it's reckoned a sun that is the source of all our power. The sun and you and me and all the stars that we can see are moving at a million miles a day in an outer spiral arm at 40,000 miles an hour. The galaxy we call the Milky Way. Our galaxy itself can contains 100 billion stars. It's 100,000 light years side to side. It bulges in the middle, 16,000 light years thick, but out by us it's just 3,000 light years wide. We're 30,000 light years from galactic central point. We go round every 200 million years. And our galaxy is only one of millions of billions in this amazing and expanding universe. The Sound of Science, il suono della scienza. Eccoci di ritorno in studio con il nostro ospite, il fisico Maurizio Martellini. Stiamo raccontando la storia di Georg Gamow, uno dei più importanti fisici del Novecento, la cui gioventù attraversa uno dei periodi più tragici della storia russa, ma anche della storia mondiale, segnata dalle due grandi guerre e dalle dittature nazifasciste e comuniste. E c'è una canzone con cui, Giulia, ti chiediamo di aiutarci a entrare un po' in questa atmosfera di perenne conflitto e di rivalità che ha contrassegnato un po' tutto il Novecento. Il brano che stiamo per ascoltare si intitola Leningrad di Billy Joel, è stato scritto nell'89 dopo che Billy Joel ha incontrato e conosciuto un clown di nome Victor dell'Unione Sovietica. Dopo aver parlato con lui ha scoperto della sua infanzia, ha parlato gli ha raccontato della sua sofferenza, del suo lutto perché ha perso il padre a causa della guerra, e ha notato quanto la sua infanzia, proprio quella di Billy Joel, in realtà fosse vicina a quella di Victor, anche se di paesi completamente diversi e spesso nemici. E questa canzone è stata scritta 2 anni dopo questo incontro, proprio per cercare di avvicinare questi due paesi. E allora vi lascio alla voce di Giulia, Leningrad. A son who never had a father after Leningrad went off to school and learned to save the state, follow the rules, and drank his vodka straight. The only way to live was drown the hate. A Russian life was very sad, and such was life in Leningrad. E tra l'altro la canzone è proprio del 1989, anno in cui, come tutti ricordano, cadde il muro di Berlino. Sembrava che sarebbe iniziata un'epoca di amicizia, ma stiamo vedendo che le cose non stanno andando proprio in questo modo. Ma insomma, grazie Giulia per questo strancio di Leningrad di Billy Joel, da cui ripartiamo per raccontare un po' di biografia del protagonista della nostra storia. Georg Gamow nasce nel 1904 a Odessa, il padre è un insegnante, il nonno è il metropolita di Odessa. Nel 1914, quando Gamow ha 10 anni, scoppia la prima guerra mondiale. 3 anni dopo si susseguono la rivoluzione russa e quindi la guerra civile. Odessa durante questi anni viene bombardata, per le sue strade si scontrano di volta in volta truppe greche, francesi, britanniche contro truppe dell'armata rossa oppure dell'armata bianca oppure contro le truppe rosso-verdi. In questo caos Gamow prosegue come può con i propri studi ed è da sempre interessato alla scienza. C'è un aneddoto che Gamow racconta nella sua autobiografia. A un certo punto il prete gli dà un po', insomma, di ostia imbevuta nel vino, lui la conserva nella guancia, corre a casa dove prova a verificare col microscopio che gli aveva regalato il papà se effettivamente si è trasformato nel sangue e nel corpo di Cristo. Lui fa un confronto con un pezzo di mollica bagnata e un pezzo di pelle che si era tagliato via dal dito. Naturalmente non osserva nessuna trasformazione miracolosa e Gamow dice nella sua biografia: quella fu l'esperienza che fece di me uno scienziato. Ma insomma, al di là degli aneddoti, Gamow studia fisica prima a Odessa dal 22 al 23 e poi a Leningrado, dove diviene allievo di Alexander Friedman, il padre della teoria dell'universo in espansione. Mentre studia a Leningrado, per un breve periodo trova anche un'occupazione nell'Armata Rossa, questo anche per tirare a campare, per arrivare a fine mese come si dice oggi, e lì a 20 anni viene assunto come docente di fisica presso la scuola di artiglieria dell'Ottobre Rosso. Senza che abbia mai sparato un colpo, al giovane Gamov viene affibbiato automaticamente il grado di colonnello e un giorno durante un'esercitazione per poco non fa saltare per aria una chiesa piena di gente, scambiandola per un bersaglio appunto da esercitazione. E questo pone fine all'esperienza e alla carriera militare di Georg Gamow, che però nel 1928 riceve un invito per un trimestre di studio a Gottinga, a cui immediatamente nei due anni successivi insomma seguiranno una permanenza a Copenaghen e poi a Cambridge. Parliamo delle tre capitali della fisica europea e mondiale, dove incontrerà alcuni degli scienziati che avevano dato il via a questa rivoluzione dei 30 anni della fisica. Ed è proprio quando si trova a Gottinga che Gamow sale alla ribalta dell'ambiente scientifico internazionale presentando nel corso di un convegno il suo lavoro fondamentale sull'emissione delle particelle alfa, cioè in pratica Gamow fornisce per la prima volta una spiegazione del decadimento radioattivo. Si tratta, come spiega il fisico Giulio Segre, della prima applicazione della meccanica quantistica, questa nuova scienza, alla fisica nucleare e segna quindi questa novità la transizione in fisica teorica dallo studio dell'atomo a quello del suo nucleo. Nel 1931 Gamow torna, dopo questi due anni molto importanti di permanenza all'estero, in Unione Sovietica e racconta così nella sua autobiografia le sue impressioni. Ascoltate. Quando andai a trovare alcuni amici dell'Università di Mosca, loro mi guardarono sbigottiti e mi chiesero perché diamine fossi tornato. «Beh, perché no?» fu la mia risposta. Poi venni a sapere che durante i due anni scarsi in cui ero stato via, l'atteggiamento del governo sovietico nei confronti della scienza e degli scienziati era molto cambiato. Ora la scienza sovietica era diventata una delle armi per combattere il mondo capitalistico. Mentre Hitler suddivideva le scienze e le arti in ebree e ariane, Stalin creò il concetto di scienza capitalistica proletaria. Per gli scienziati russi, fraternizzare con gli scienziati dei paesi capitalistici diventò un reato e da quelli che andavano all'estero ci si aspettava che carpissero i segreti della scienza capitalistica senza rivelare i segreti della scienza proletaria. La scienza venne asservita alla filosofia di Stato del materialismo dialettico, utilizzata da Marx, Engels e Lenin nelle loro opere sociologiche. Ogni deviazione dalla corretta ideologia dialettico-materialistica era considerata una minaccia per il proletariato e veniva severamente punita. Un esempio eclatante di dittatura della filosofia sulla scienza sovietica fu la messa al bando della teoria della relatività di Einstein, in quanto negava l'esistenza dell'etere cosmico, che è una conseguenza diretta della filosofia del materialismo dialettico. Insomma, Martellini, siamo di fronte a una forma di scienza patologica dove addirittura se i fatti non corrispondono, diciamo così, alla teoria scientifica ortodossa, bisogna negare i fatti. Il regime cerca di giustificarsi dandosi una ragione scientifica, quindi razionale. Ai tempi dei dialoghi di Galileo, che tu sai, si scomodava Aristotele perché la perfezione della fisica di allora rifletteva l'idea di Dio, no? Del motore, del primo motore, come si diceva allora. Per i marxisti la scienza serviva a giustificare il marxismo. Il marxismo era una dottrina scientifica con i loro programmi quinquennali e le cose, per giustificare se stessa. E d'altronde, Martellini, siamo all'inizio del periodo più oscuro della dittatura di Stalin, che raggiungerà l'acme tra il 1936 e il 1939 con le ben note purghe staliniane, il periodo del grande terrore dove bastava una parola sbagliata per finire la propria vita in un gulag in Siberia. E questa è la fine che faranno anche molti scienziati di primissimo piano, anche amici di Gamow come Lev Landau, che alla fine si salverà, o Abatik Bronstein, che invece in un gulag perderà la vita. Ma Gamow riuscirà ad evitare tutto questo e qui vi racconto un episodio. Nel 1932, insieme alla moglie Lyubov Vokhmisteva, detta Ro, anche lei una fisica sovietica, Gamov mette in acqua vicino a Yalta una canoa gonfiabile, riempita di scorte alimentari e adattata per un viaggio un po' più lungo del solito. Destinazione: la costa della Turchia, a poco più di 200 chilometri di acqua, diciamo così, di distanza. Da tempo Georg e Ro, sfruttando le vacanze e i viaggi di lavoro, esplorano i confini dell'URSS alla ricerca di un varco, di una possibilità di fuga dal regime sovietico, e la fuga via mare sembra la soluzione più praticabile. Secondo i calcoli dei due coniugi, il viaggio avrebbe richiesto un paio di giorni durante i quali si sarebbero dati il turno alla voga. Se non che il Mar Nero si chiama così per via delle violente tempeste che lo colpiscono in continuazione, spesso improvvisamente. Quando questo accade a Gamov e consorte, i due si trovano proprio a metà strada. Nella sua autobiografia Gamov racconta con dettaglio questo episodio, in cui evidentemente i due hanno rischiato la vita, e di come, insomma, lottando contro le onde siano riusciti a tenersi a galla mentre venivano respinti dai venti ancora indietro verso le coste della Crimea, dove finiscono per approdare fortunosamente esausti a un centinaio di chilometri dal punto di partenza. Ebbene, dopo questo episodio Gamov inizia a disperare riguardo la possibilità di fuggire dall'URSS, quando inaspettatamente viene nominato rappresentante dell'Unione Sovietica al Congresso Solvay del 1933. E così, in modo a dir poco rocambolesco e forse anche leggermente più rischioso del tentativo di fuga in canoa, Gamov, facendo tutte le pressioni insomma che riusciva, convince i superiori a farsi accompagnare in questo viaggio di lavoro dalla moglie, e così nel 1933 Gamov e Ro lasciano per sempre l'Unione Sovietica. Martellini, lei non è così sorpreso di questa possibilità di fuga che di fatto viene concessa a Gamov? Ma sai perché? La principale forma di diffusione allora negli istituti scientifici sovietici era il report fatto dagli scienziati che gli era permesso di andare fuori. Io mi ricordo, sono andato a Mosca quando c'era ancora Gorbaciov, che c'erano seminari lunghissimi con intervalli di inevitabile tè nero, perché era l'unica maniera con cui loro potevano trasmettere le informazioni, e gli era permesso, e quindi il regime era obbligato in qualche maniera a mandarli fuori. Lì fu un errore, perché mandarono anche la moglie, di solito mandavano uno dei due, l'altro proprio veniva per, e l'altro tenevano come ostaggio, lì proprio per no? ostaggio. Però era inevitabile, perché non c'erano riviste, non venivano, non ricevevano riviste, nulla. E comunque diciamo che questi buoni per lasciare il paese erano concessi sempre con il contagocce, con appunto, il contagocce, di solito tenendosi qualche familiare, sì, assicurandosi, esatto, che qualcuno rimanesse in patria. Però Gamov ce la fa, fugge negli Stati Uniti, dove nel frattempo si sta sviluppando la bomba atomica, e sarà protagonista di questa trasmissione tra pochi secondi. Intanto sentiamo come va sulle strade, rimanete con noi. The Sound of Science, il suono della scienza. Bentornati a Sound of Science. Stiamo raccontando i 30 anni che nella prima metà del Novecento cambiarono il mondo della fisica e anche la nostra visione del cosmo, e lo stiamo facendo percorrendo, come facciamo sempre qui a Sound of Science, la biografia di uno dei protagonisti di questo momento, il fisico russo, poi naturalizzato americano, Georg Gamov. Abbiamo raccontato della fuga di Gamov dall'Unione Sovietica, che rapidamente poi approda negli Stati Uniti e diventa professore alla George Washington University, dove tra l'altro porta con sé un fisico ungherese che a quel tempo aveva un incarico temporaneo in Inghilterra, Edward Teller, quello che sarà il padre della bomba all'idrogeno. E qui ci avviciniamo al tema che vorrei affrontare nella terza parte di questa puntata: i fisici e la bomba. Perché tra le scoperte straordinarie di quegli anni ce n'è una che è all'origine appunto della bomba nucleare, che allo stesso tempo ha fatto presa sull'immaginario collettivo come poche altre idee della scienza. È un tema infatti che ricorre spesso anche nella musica, ed è proprio da qui che con l'aiuto di Giulia vogliamo partire. Growing in numbers, growing in speed. Dunque Martellini, Giulia ci ha appena fatto ascoltare We Are All Made of Stars di Moby, canzone che non esisterebbe appunto se verso la fine degli anni 30 non fosse stata scoperta la nucleosintesi stellare, cioè quell'insieme di processi che all'interno delle stelle, questa volta non più nel Big Bang come dicevamo prima, creano quasi tutti gli elementi chimici di cui anche noi siamo composti. E anche qui c'è lo zampino, diciamo così, di Gamow. Allora, la storia in pillola. La radioattività, ci sono delle sostanze che emettono queste particelle, era nota ai chimici, famosi Curie all'inizio del 1900, però non si riusciva a capire perché alcune sostanze erano calde, radioattive, altre no. La concezione del nucleo atomico viene molto dopo. Non si sapeva come era fatto l'atomo neanche, in effetti. No, ma legato al progetto atomico, per fare una sintesi, siamo negli anni 30, chi capisce, inizia a capire questo tipo di reazioni, che poi erano le stesse reazioni che potevano avvenire, però attenzione, in maniera film all'incontrario, nelle stelle, sono i fisici tedeschi, sono i chimici tedeschi. La fissione nucleare è il suo opposto, che invece di spezzare un nucleo, che è la parte centrale dell'atomo, si cerca di aggregare dei nuclei, di solito o si spezzano dei nuclei pesanti, questa si chiama, o si aggregano fissione, o si aggregano, questa è la fusione, viene intorno dagli anni 30 in poi. E Gamow ha dato un contributo assieme a Bethe, che era il suo grande maestro e anche grande matematico, grande a differenza di Gamow, sì, non so se lo potevo dire, sì, sì. A spiegare appunto questi fenomeni. Siamo fatti della stessa materia delle stelle. In realtà è molto sovietica questa maniera di pensare, cioè come se ci fosse una equazione fondamentale o un disegno fondamentale molto razionale che va dalla natura essenziale della materia agli individui, passando delle stelle. Quindi doveva essere un fisico sovietico a fare questa scoperta, diciamo, era connaturato al modo di ragionare di quella cultura. Sta di fatto, Martellini, che nel preciso istante, ma ce l'hai già anticipato, in cui si iniziano a capire i processi nucleari, si apre uno scenario che conosci molto bene per esserti occupato di cercare di smantellarlo, che vorrei introdurre così. Ascoltate. I don't know, but I've been told uranium ore is worth more than gold. I sold my cad, I bought me a Jeep, I got that bug and I can't sleep. Uranium fever has gone and got me down. Uranium fever is spreading all around. With a Geiger counter in my hand, I'm going out to stake me some government land. Uranium fever has gone and got me down. Well, I had a talk with the AEC and they brought out some maps that looked good to me. And one showed me a spot he said he knowed, so I straddled my Jeep and headed down the road. I reckon I drove about 100 miles down a bumpy road out through the wilds, when all of a sudden I bounced a stop at the foot of a mountain, didn't have no top. Uranium fever has done and got me down. Uranium fever is spreading all around. With a Geiger counter in my hand, I'm going out to stake me some government land. Uranium fever has done and got me down. Ma io mi ricordo che ero piccolo, però ho studiato, ho letto, negli anni 50 le radiazioni erano considerate benefiche. Addirittura. Sì, questo faceva parte di un lavaggio dei cervelli, fondamentalmente, sia a est che a ovest. Quindi è vera, è proprio la febbre dell'uranio. Ed è una febbre, Martellini, che raggiunge dimensioni parossistiche, con decine di migliaia di testate nucleari schierate da una parte e dall'altra. E anche qui, di fatto, c'è lo zampino di Gamow, che quando inizia la corsa alla bomba atomica nel 39 non ha il permesso del governo americano di partecipare alle attività di ricerca militare, quasi certamente a causa di quella sua breve, come abbiamo abbiamo visto anche piuttosto maldestra esperienza giovanile nell'Armata Rossa. Per questa ragione, pur essendo uno dei massimi esperti di fisica nucleare vivente, non viene coinvolto nel progetto Manhattan, ma nella sua autobiografia Gamow dà la netta impressione di essere rammaricato di questo fatto, di non essere stato coinvolto nella progettazione della bomba atomica. E d'altronde nel 1948, quando finalmente riceve l'autorizzazione a lavorare con i militari, ne è ben contento e insieme a Teller svilupperà di fatto proprio la bomba H, la bomba all'idrogeno, l'ordigno più potente mai costruito dall'uomo, tanto che utilizza una bomba atomica come detonatore. Una cosa che mi ha sempre colpito è che fondamentalmente nessuno, quasi nessun grande fisico, soprattutto nel corso della Seconda Guerra Mondiale, ma anche dopo non è che abbiano grandi problemi, si tira indietro quando si tratta di progettare un'arma di distruzione di massa. Che cosa ne pensa di questa cosa? È una bellissima domanda. Ovviamente dei fisici sovietici si sa molto poco, anche il mio maestro Isaac Alatim non ha mai parlato in dettaglio. Dei fisici americani si sa che il progetto Lo Salmo, solo uno si tirò fuori, Rotblat, che è quello che poi fondò il movimento Pugwash. E allora perché questo? Perché tu andavi o dal commissario del popolo o dal direttore generale della SAMS e potevi avere le apparecchiature, i materiali, i finanziamenti e potevi giocare e costruire il tuo giocattolo. Ecco, ma non c'è comunque qualche differenza fra quel gruppo di scienziati che parteciparono alla bomba atomica, quindi il progetto Manhattan? Perché comunque in quel momento c'era Hitler in Germania, c'era Stalin in Russia, e il ragionamento banale, se non lo facciamo noi, comunque prima o poi lo fanno anche loro, era un ragionamento che, ecco, quanto pensa che abbia pesato questo aspetto? Si era in guerra e questi partecipavano così alla guerra. Per quello che so io, questo toccava per gli americani, toccava a chi spinse il presidente americano, che era abbastanza contrario a fare la bomba atomica, a farla. Fu Einstein, una famosa lettera. Io credo che gli scienziati, anche a livello medio-alto, non erano consapevoli di questo. Questa era una giustificazione a posteriori. In realtà loro avevano per la prima volta enormi finanziamenti, potevano comprare gli apparecchi più eccezionali e cose. Lo scienziato è un bambino, ha la presunzione di sentirsi alito divino, e solo che questo tipo di esperimenti, soprattutto negli anni 40, richiedevano nuove apparecchiature, nuovi investimenti, non c'era la globalizzazione degli investimenti, quindi se lo potevano permettere, se mi permetti, solo gli stati, e ci doveva essere un regime di emergenza. È solo i militari di solito che non hanno, diciamo, bisogno di far tornare i conti. Sì. Ecco, e a proposito proprio del rapporto tra Gamow e la bomba. Tenete conto che Gamow era uno studioso dei fenomeni che avvengono all'interno delle stelle, la fusione, e quindi lui lavorò con Teller e altri. Di quei 10 anni di cui ha lavorato non si sa quasi nulla. Oppenheimer, fammelo dire, e lui ebbe una vera crisi di coscienza, tant'è che poi fu messo sotto osservazione dall'FBI. Cose. Gamow era un personaggio, un po' un bambinone, riteneva in qualche maniera che questo non era problema degli scienziati, ma era problema dei governi. Ancora un'ultima pausa, poi torna la storia di Georg Gamow, rimanete con noi. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta. Sono Nicoletta Carbone, diventerò la vostra salutare ossessione quotidiana, 7 giorni su 7. Dal lunedì al venerdì una rassegna puntuale delle notizie che arrivano dalla ricerca, commentata dagli esperti più autorevoli. E per chi vuole andare oltre la notizia, sul nostro sito ogni giorno approfondimenti, interviste, le risposte degli esperti, video e tutorial. Ma ci sarò anche nel weekend. Al sabato vi racconterò tutto quello che dovete fare e sapere per stare bene e per sentirvi meglio, solo quello che serve. E la domenica caccia alle bufale per riportare la verità nel piatto. La salute, il benessere e il cibo sano con Nicoletta Carbone. da lunedì 4 settembre alle 12 su Radio 24. The Sound of Science. Il suono della scienza. Bentornati a Sound of Science, stiamo continuando a raccontare la storia del fisico Georg Gamow, uno dei protagonisti dei 30 anni che all'inizio del Novecento cambiarono la storia della fisica. Ebbene, questo fruscio, intanto, che state ascoltando in sottofondo, dovete sapere, non è un disturbo, ma quanto rimane del bagliore che si liberò oltre 13 miliardi di anni fa nel momento del Big Bang. La radiazione che si è sprigionata allora si è diluita, per così dire, per effetto dell'espansione cosmica ed è giunta fino a noi sotto forma di questo fruscio nel campo delle onde radio che appunto stiamo ascoltando, che proviene in modo uniforme da tutte le direzioni del cielo e la cui energia corrisponde a una temperatura di 3 gradi Kelvin, cioè la temperatura dello spazio profondo. Si tratta della cosiddetta radiazione cosmica di fondo, detta anche radiazione fossile, che come abbiamo detto fu prevista dal protagonista della nostra storia, il fisico Georg Gamow, negli anni 40, ed è stata poi scoperta nel 1965 da due tecnici dell'IBM. Questa è una storia nota: Arno Penzias e Robert Woodrow Wilson, che stavano facendo una mappa dei disturbi radiofonici e che per la loro scoperta ricevettero anche un premio Nobel. Ma a quanto pare, Martellini, c'è un retroscena che lei un po' ci ha anticipato prima, poco noto. Negli anni 60 il problema principale dei militari era trasmettere l'informazione, quindi i problemi, questi scienziati dell'IBM fondamentalmente stavano studiando l'efficacia, come dite voi, delle reti, della trasmissione dei dati nel caso di un conflitto nucleare, quindi l'assenza di rumori, la possibilità di non essere intercettati. Viene scoperta l'azione di fondo perché c'erano i satelliti militari, semplicemente questi, e scoprono appunto questo rumore e vanno a capire che non era generato. Perché stavano facendo una mappa dei disturbi per evitare di avere problemi. Dei problemi, sì, sì. Quindi c'era questa osservazione e in qualche maniera segna il successo di Gamow, perché ma è molto tipico sempre di questo tipo di fisica, perché lui cerca di descrivere l'espansione dell'universo anche con i fenomeni fisici che avvengono, cosa che si è un po' perso. Oggi si pensa all'universo in maniera molto matematica. Insomma, in qualche modo i militari hanno restituito i molti favori ricevuti da Gamow. E la storia non finisce qui, perché lo studio dettagliato delle debolissime variazioni locali della radiazione cosmica di fondo ha prodotto negli anni successivi un gran numero di scoperte. Forse la cosa più importante da ricordare è che la mappa di queste appunto deboli variazioni si è rivelata una sorta di lastra fotografica dell'universo, che ha permesso di comprenderne l'ossatura, la struttura sulla scala. Senta Martellini, abbiamo accennato alle molte scoperte che sono arrivate anche dallo studio della radiazione cosmica di fondo. Quale sarà la prossima frontiera? Terza rivoluzione sono le onde gravitazionali, cioè la rivoluzione di adesso, quello che noi il nuovo rumore di fondo, bravissimo, che dobbiamo cercare sono le onde gravitazionali. Fondamentalmente, se uno dovesse usare una visione un po' animistica, queste grandi macchine che è l'universo, ha il suo fiato interno. Il primo, l'abbiamo capito, è la radiazione, la luce, le stelle che sono delle fornaci nucleari. Il secondo è la radiazione cosmica. Il terzo, che sarà la nostra generazione, e l'onda gravitazionale. E qui, prima di lasciarci, Martellini, un commento sull'ultimo grande contributo di Gamow, che è nel campo questa volta della biologia. Pare che le cose andarono così: Gamow legge un numero della rivista Nature nella quale per la prima volta viene spiegata sostanzialmente la struttura del DNA. Sappiamo che il DNA è una specie così di manuale delle istruzioni che serve alle cellule per assemblare le proteine, ma non si sapeva come ciò avvenisse e non si sapeva in che modo l'informazione contenuta nel DNA venisse poi tradotta. E Gamow capisce proprio questo, capisce che il DNA è una specie di codice scritto 3 lettere alla volta, insomma svela il meccanismo di codifica genetica del DNA. Cosa ne dice Martellini? Ma c'è una continuazione, anche un altro famoso fisico che tu hai capito che è quello che mi interessa molto, Schrödinger, fece un'ipotesi di DNA come struttura cristallina. Chissà perché i fisici atomici e nucleari poi alla fine pensano di estendere le loro scoperte gerarchiche, quindi c'è sempre questa struttura, no? O sono le particelle per Gamow o per Schrödinger le simmetrie, vanno verso il mondo della biologia. Perché questo? Io me lo sono un po' chiesto, credo che sia dettato da due fenomeni. Uno, dall'estrema arroganza dei fisici. Che pensano di essere più intelligenti di tutti gli altri. Questo pensano che di essere più intelligenti di Dio. Assieme ai matematici, che di devo Dio. Dire. Ah, di Dio, Dio, non di sì. tutti. Okay. E l'altra, perché alla base, fondamentalmente c'è il principio del riduzionismo. Cioè l'idea che hanno i fisici teorici in particolare, è che da pochi principi puoi costruire il grande disegno. Quindi i fisici come Schrödinger, Gamow, cercano di ripetere i successi della fisica atomica, la storia degli elementi nel campo biologico, la tabella di Mendeleev, di tutti gli elementi, ma scoprono, non loro, ma chi gli ha detto, loro scoprono che non è così lineare la cosa. Allora Martellini, da sempre il mistero della gravità è al centro delle grandi rivoluzioni della fisica, quella di Galileo, quella di Newton, quella di Einstein, e da quello che ci ha appena detto potrebbe anche essere al centro della prossima rivoluzione della fisica. E allora qui a Sando Science abbiamo una tradizione, dedicare un pezzo al nostro ospite per concludere. Abbiamo scelto come tema proprio quello della gravità. Di che cosa si tratta, Giulia? Si tratta di Gravity di John Mayer. Il pezzo parla della gravità in realtà in senso metaforico, perché il riferimento in questo caso è l'amore, inteso come una forza che ti tormenta e di cui non riesci a liberarti, proprio come la gravità per voi fisici. Eh sì, direi proprio di sì. E allora Gravity di John Mayer. Adesso siamo veramente in chiusura, grazie al nostro ospite, il fisico Maurizio Martellini, grazie ad Andrea Roccabella in regia, ma soprattutto grazie a tutti gli ascoltatori che ci hanno seguito in questa che anche per me e Giulia è stata un'avventura estiva tra scienza e musica. Questa era l'ultima puntata di Sound of Science, da domani riprenderà la programmazione abituale di Radio 24. Da Maurizio Melis e da Giulia Torino un saluto a tutti. Ciao!